tuoi cieli fanno il loro nido lontano da occhi indiscreti, angeli celesti aprono le porte di tesori nascosti. Basta chiedere a volte una nuvola verde di spighe del tuo grano. Può cambiare il mondo, darci un po' di fieno. Pascoli attraversano la strada che porta al fiume. Senza il tuo sguardo attento, sono in balia del vento. Dammi le tue mani, mostrami il tuo viso, perché non c'è distanza tra te e il paradiso. Sciogli i tuoi capelli, donami il tuo sguardo, donna che in libertà hai cresciuto ogni tuo figlio. Tutta la piazza in festa, gridano il tuo nome, anche le mura sentono la tua musica cantare, aspettano che parli, tu che sai parlare. Solo a chi apre il cuore, solo a chi sa ascoltare, signora dagli occhi verdi, neri, a volte rossi, signora quanto manchi, a tutti i popoli oppressi, dammi un segno di vita, una briciola del tuo amore, e la luce regnerà in ogni angolo, in ogni cuore. Donna che in ogni storia hai saputo regalare al mondo la giustizia, la dignità, l'amore. Sciogli i tuoi capelli, donami il tuo sguardo, donna che in libertà hai cresciuto ogni tuo figlio. Prendi tutto quello che ho donato e mai avuto, prendilo come omaggio, io tuo figlio amato. Ascolta questo canto, che di te ho bisogno, signora che tanto hai dato a chi libertà ha difeso. Dammi le tue mani, mostrami il tuo viso, perché non c'è distanza tra te e il paradiso. Sciogli i tuoi capelli, donami il tuo sguardo, donna che in libertà hai cresciuto ogni tuo figlio. Dammi le tue mani, mostrami il tuo viso, perché non c'è distanza tra te e il paradiso. Sciogli i tuoi capelli, donami il tuo sguardo, donna che in libertà hai cresciuto ogni tuo figlio.